da dipingere di blu. E in questa stanza solo noi, sul mio viso accendi tu qualcosa che tu mi dai, e senza parlare mi dirai: io senza te, io che farei. E pensare, sai, ci credevo io, come l'acqua trasparente ti amo anch'io. E penso ai giorni che l'amore io e te è tutto quello che ho da te. Io mi accorgo come sei importante per me.